Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Mi vede, ascolti, lei non si rende conto, ma è diventato insieme a Gilletti, lei sul piano radiofonico, lui su quello televisivo, l'emblema del giornalista oclocratico. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da oclocrati. Caro Parenzo, ci facciamo sempre riconoscere il nostro amico Gasparri, Maurizio Gasparri, vice president of the Senate, del Senato, e viene citato sui giornali inglesi perché naturalmente se l'è presa con Elton John, definendolo uno schifo umano. Per riassumere ai tanti ascoltatori che ci stanno seguendo, camionisti, gente qualsiasi, tassisti. Umberto Eco. No, Umberto Eco non lo so, non credo ci segua perché sicuramente faremo schifo ad Umberto Eco, ma no, di questo sì, ma per quello lo ascolta, perché vuole capire fino a dove può arrivare l'animo umano. Cioè fino a dove può arrivare lo schifo umano. A proposito di schifo, sì. Di schifo è l'esatta definizione che Gaspari ha dato di Elton John, perché sì, ma è una persona veramente, guarda. Vabbè, ma se uno, ma scusami, se uno no, pra... ma non... no, ma è il non, giudizio, non è il giudizio di Gaspari. Posso dirti, sarebbe da chiudere qua oggi. Cioè perché? Sarebbe da perché? Perché ci ha fatto fare una figura di merda, ci ha fatto fare una figura di merda in Inghilterra, in dice. In tutto il mondo, ma gli inglesi, oltre a considerare Sir Elton John, Sir Elton John. La regina, sono due cose che sono intoccabili in Inghilterra. Una è la regina, la seconda è Elton John, e sono due queen. Vabbè, ho capito, no? Ma che vuol dire? Non c'è una queen, ma qui da questo punto di vista si può dire che non c'è nessuno di intoccabile, però qui alla zanzara soprattutto non c'è nessuno di intoccabile. Ma Gasparri, tu ti immagini adesso il signor Elton John che nella sua villa lussuosissima Sì. apre il giornale, sì, no? Il suo sì. maggiordomo chiama il maggiordomo, cioè, quello arriva il giornale è portato su un piatto d'argento, peraltro. Vabbè, adesso questo che cazzo ne sai tu? Sì, no, è sicuro che è così. Ma no, ma non è detto. Have you read Mr. Gasparri? Elton John, guarda, Gasparri? What is Gasparri? It's something to eat? Direi qualcosa da mangiare? No, Gasparri is a political man in Italy. No, non solo political man, è vicepresidente del Senate. Ha detto really? E è impazzito. Ha detto really? No, it's a joke, cioè uno scherzo. Poi chiama il suo bimbino, chiama il suo ragazzino che gironzola per casa, avuto con l'utero in affitto, credo, in America. Perfetto. E poi? Io fossi. No, ha chiamato l'Italia, Sanremo, e ha detto che non ci sarà. Quindi per colpa di Gasparri. No, a parte che non è vero questo, non è. Ma probabile che accada. Io mi auguro che accada, guarda. Così Gasparri farà un danno al servizio pubblico, farà un danno al nostro paese. E finalmente ci renderemo conto di chi è Gasparri. Vabbè, ragazzi, ci ma siamo perché fatti conoscere dalla perfida Albione, dall'Inghilterra, attraverso Gasparri, anziché farci conoscere attraverso Samantha Cristoforetti, anziché farci conoscere attraverso Umberto Eco, anziché farci conoscere attraverso Machiavelli, anziché farci attraverso Pasolini. Ma che c'entra Pasolini adesso? Da Gasparri. cioè in Inghilterra, adesso io mi vergogno di andare in Inghilterra, ho paura, ho paura di atterrare all'aeroporto. Ma che ne sanno gli inglesi, dai, a Londra, perché sono sicuro che appena darò il passaporto mi diranno: Parenzo, you are from Italy? E dice: sì, sono un giornalista from Italy. There is Gasparri in Italy, dirà, c'è Gasparri in Italia. Ma non è così, dai, su. Sì, era così. Comunque, e mi danno il foglio di via e mi rimandano in Italia. Gaspar, che dice? Uno ha tutto il diritto di considerare Sir Elton John un poveraccio, perché io non sono d'accordo, per carità. No, ti dico di più, ha messo a rischio gli italiani che vivono in Inghilterra. Ma che guarda, cioè, ma la che dichiarazione di Gasparri mette a rischio. Ma non esagerare, dai. Le migliaia di italiani che li lavorano, che saranno derisi ogni volta che un italiano nel Financial District, nella City, no? Sì, vabbè, adesso dirà italiani, diranno: italiano? Gasparri! Subito! Dai! Vedrai, ecco, è finita. Gasparri, così. Sentiamo, dai! Ma è una vergogna, quello che ha fatto Elton John è uno schifo, è una vergogna, è l'egoismo di un ricco arrogante che ha sfruttato la disperazione del prossimo. Elton John è lo schifo umano che ha fatto questa cosa, è chiaro, io lo dico con chiarezza. Elton John è uno schifo umano, poi ha aggiunto anche che a Sanremo non deve fare il guru dell'utero in affitto, ma solo cantare. Oh, è tornato in grande spolvero, già ieri abbiamo fatto ascoltare qualcosa, ma vi regaliamo qualcosa di speciale, è tornato in grande spolvero il nemico delle coppie gay, anzi no, il nemico degli omosessuali, perché lui è contro tutti i froci. Don Livio Fanzaga, grande speaker di Radio Maria, pensa che dietro tutta questa roba qui, la legge Cirinnà, non solo i giornali italiani, le radio, ci sia il diavolo. Tutti i giornali, che sono veramente una cosa incredibile, cioè tutte le televisioni, e quelle della RAI e quelle di Mediaset, non parliamo poi della 7, eccetera, no? Tutti i giornali sono schierati dalla parte del diavolo, diciamo pure così, dalla parte del diavolo, è ormai il padrone della stampa, Il diavolo è dietro i giornali, le televisioni, si è dimenticato le radio, ma insomma lo aggiungiamo noi, dietro le radio comanda tutto il diavolo. Questa non è semplicemente una lotta politica, hai capito? Ma è un tentativo distruttivo del disegno di Dio, non è solo un disegno di legge. Questo è solo lo strumento, ma è una mossa del padre della menzogna, cioè Satana, che cerca di confondere e di ingannare. Non è Radio Maria, ragazzi, è la Zanzara. 800 24 00 24, per i messaggi WhatsApp 393 71 71 701. Oh, ci sono novità in casa Salvini, Parenzo, novità in casa Salvini, novità in casa Lega, oltre alle solite dichiarazioni, se vuoi te ne metto un paio, così anche per scaldare il nostro primo ospite della serata, Ti metto subito qualche chicca from Lega. Signor Marcato, il nostro amico Marcato, peraltro credo padovano come te, se non sbaglio. Purtroppo sì. Signor Marcato, dici che se delinqui e sei straniero devi avere l'aggravante. Sì. Ma ci vuole l'aggravante? Se sei straniero, ci vuole l'aggravante perché sei straniero. E visto che te la sei presa contro un anziano, ho ancora più un aggravante. Devi fare 100 anni di carcere e a calci di tutti. Basta! Oh, invece secondo Salvini non ci sono donne e bambini che scappano dalla guerra. Non ci sono donne e bambini che scappano dalla guerra, sono una minoranza. Questa è un'occupazione di territorio organizzata e per l'assurdo finanziata dai governi, compreso quello italiano. Però la chicca è un'altra, poi magari ve lo faccio ascoltare in maniera più ampia, ve lo faccio riascoltare. C'è un signore che parteciperà alla, alla manifestazione, come si chiama, Family Day. Ma che cazzo è poi Family? Perché Family? Io divento pazzo per la parola Family Day. Cioè divento pazzo perché... Per quale motivo? È una manifestazione contro gli omosessuali, contro i proci. Basta, non c'è altro, non c'è a favore della famiglia. Tutti quanti, più o meno, io no, ma insomma, molti, il 90% delle persone è a favore in generale della famiglia, no? Cioè, comunque, un signore parteciperà in nome di un'organizzazione, l'abbiamo sentito la settimana scorsa, non mi ricordo, Misericordia per Cristo, cose di questo tipo, sono già presenti a Roma. Questo tizio si chiama Nasato, il signor Lino Nasato, che dice che tra che i gay... È veneto anche questo. Sì, è bene, tutti veneti, sì, più sì. Matti sono tutti veneti. Che guarda, allora, questo Nasato dice che tra i gay non c'è amore, ma solo peccati. Sì. Cioè non c'è amore tra gay, lei dice, tra omosessuali. Ma, no? Ma lo dice San Paolo stesso, ma sono no, San Paolo non lo dice. Cose io ho capito stava San Paolo, però sono cose contro, cioè, voglio dire, ma l'amore, voglio dire, ma l'amore, secondo ma me no, ma l'amore, ma che amore è questo, dai. Non c'è tra due donne, tra due uomini non ci può essere, ma amore. È solo peccati, peccati sono e basta. Peccati. Solo peccati. Ma l'ha detto anche San Paolo, però. Però c'è l'ingresso di Gegia, della signora Gegia, te la ricordi? Cosa, sì. Come no, Gegia, quasi attrice. 60 anni, attrice, anni 80, soprattutto anche anni 90, eccetera. Entra con Salvini. Entra no. In politica. Sì, come no, candidata a Gallipoli con Salvini, ma è una cosa incredibile. Noi la vogliamo ricordare, però, così, insieme a Roncato. Insieme a Roncato. Ma che cosa stavate guardando? Ho capito che cosa. Andrea, lo sai, io zio quando ero piccola al paese come mi chiamava? Pensa un po'. Puletta d'oro, sì. Ah, allora là in Africa avevi lo zio che ci dava, eh? Beh sì, vabbè, c'hai un bel culetto, però non ti montare la testa, eh? Culetto d'oro con Salvini. Oliviero Toscani con noi, buonasera, buonasera. Buonasera. Beh, bene, amico mio, come siamo messi? Lanzarelli. Ma hai visto che esce dal Veneto? Hai visto quali voci escono dal... Ho detto io che c'è un problema di alcolismo. Queste sì. sono le alla fine risultati, capito? Sì, vabbè, tu so che tra l'altro stai per realizzare addirittura un libro sulla... Sì, fantastico, sarà un best seller. Senti, ricco con i veneti. Ma non è che oltre a essere alcolizzati, secondo te i veneti sono pure un po' omofobi, no? No, non sono alcolizzati tutti, mettiamo a posto, ma quelli alcolizzati, cioè questi qui pazzi, da dove viene sta follia? E che ne so io, Parenzo, da dove viene sta follia? Ma no, ma infatti io ho un imbarazzo anche, perché io anche bevo degli spritz, mi piace. Però lì c'è qualcosa in più oltre all'alcol, c'è qualcuno veramente ha il cervello. Scusa, ma non è che sono omofobi anche, no? In Veneto c'è un po' di omofobia. Come dappertutto. Ah, tu dici? Ma tutti quelli baciabanchi che vanno in chiesa, che credono in Dio, sono tutti un po' omofobi. Sì. Del resto i preti sono solamente maschi, fra di loro si vestono da donna. Insomma, c'è un problema lì. Sì, quello non c'è dubbio. Nella chiesa non c'è dubbio, l'abbiamo detto più. Nella chiesa una l'abbiamo detto più volte. Ma i veneti sono pure, secondo te, contro i gay? Ma vanno in chiesa, pregano quello lì. Allora diventano tutti un po' si influenzano. Vabbè, ma non è che vanno tutti in chiesa i veneti, No, quelli che vanno, è chiaro. Sì, però quelli che vanno, da sì. Loro, quelli che vanno sono tanti. Sì, dici? Dici, Ma Maroni che ha messo quella scritta là della regione Lombardia contro il Ferro? Oh, finalmente ha dimostrato di non essere un illiterato. Tu che sei un uomo, un artista, come hai visto quella scritta Family Day? Fa schifo, dici. Esteticamente fa schifo. Comunque ha dimostrato di non essere analfabeta, almeno c'è uno sbaglio. Perché? No, perché di solito questi qua non sanno scrivere, sono analfabeti. Almeno ha scritto qualcosa, ha dimostrato di non essere un analfabeta. Beh, ma non è in inglese, però è difficile sbagliarsi, cioè perché poi... Ah, tu dici che qualcuno gliel'ha suggerito? No, ma è Family Day, uno scrive... Ma sicuramente ma Maroni non sa l'inglese, no. No, ma che sappia. Tu dici che non sa l'inglese, insomma, Maroni? No. Nulla. Che sappia. Senti, ma invece come lo giudichi Gasparri che ha detto che Elton John è uno schifo umano? Uno schifo umano. C'è Gasparri. Chi poteva dire una cazzata così se non lui? Io trovo queste robe qua divertenti. Almeno ci fanno divertire, dai. Tu dici... Ma dobbiamo ridere quando questi qua dicono... Cioè lui dice uno schifo umano perché... Sì, ma tu immaginati degli inglesi però, tu immaginati degli Però lui dice uno schifo umano per l'utero in affitto, scusami Oliviero, lui dice per l'utero in affitto è uno schifo umano. Comunque, Elton John, sì, Gasparri versus Elton John, forse questo può far ridere. Tu pensa, cazzo, due star, eh? Gasparri, la star italiana. Ragazzi, fermi un attimo che c'è il traffico, eh? Traffico, il traffico è tutto. La Zanzara. Parenzo, curalo, curalo Parenzo. Insomma, curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Però io non so se Parenzo è d'accordo. No, scusa, mi ha appena chiamato l'ufficio stampa di Elton John. Sì. Chiedendomi who is Gasparri. Volevo un'informazione. Mi ha detto, excuse me, who is Gasparri? Ma non sanno chi è Gasparri, che strano. No, ma lo sanno. Lo sanno, dai. Ma tu ti immagini Elton John che googola Gasparri, cioè mette Gasparri e trova le res gesta di questo signore. No, ma in cioè, Italia immagino... c'è un grande star, è conosciuto nel mondo Gasparri, ma che è? Vabbè, ho capito, ma che c'hai contro Gasparri? Che ti ha fatto Gasparri a te? Non ho capito, Oliviero. Che... Non ha fatto niente, poverino. Mi domando come possiamo avere certi personaggi noi a fare a gestire la nostra politica. A cosa lo paragoneresti? Ma neanche all'avanspettacolo dello Smeraldo degli anni 50 c'era la gente così retrograda, dai. Cioè, ma scusa, a chi lo paragoneresti Gasparri, secondo te? Cioè, ma forse qualcuno ha dentro lì a... Come si chiama quel posto a Milano se sono i ritardati? Come si chiama? Cottolengo. Al Cottolengo. No, sì. Vabbè, questo no. È un Cottolengo. No. Ma sì, guarda lo sguardo. Ma no. Quando gira gli occhi. Allora, vi devo dire che io aspetto... È una persona molto simpatica. Ascolta, sì, simpatica. Dove? Uno che dice queste cagate qua non può essere simpatico. Io aspetto solamente che questi qua mi querelino. E che venga anche... Chi? Condannato. Sì. Perché fra 10 anni e 20 anni i miei nipotini diranno pensa mio nonno come aveva ragione, cazzo. Così come quando mio nonno mi insultava il Duce. Purtroppo non ho i documenti, nessuno l'ha mai... gli ha mai fatto causa, sì. Questo proverebbe che mio nonno è stato veramente un antifascista. Bene, io sono un anti-Salvini, anti-Lega, anti-Gasparri e spero che ci sia le sentenze contro di me, così un giorno i miei... Cioè, vuoi essere condannato, vuoi essere condannato, sì, per quello che dici della Lega e di Gasparri? Cioè, sarà la prova che io ho detto queste cose prima di tutti. Cioè, tu dici Gasparri è uno che al massimo ricorda un Cottolengo, sì. Ricorda un ritardato, ricorda un ritardato. Totalmente, totalmente. Con tutto il rispetto dei ritardati, naturalmente. È logico, fra l'altro non vorrei insultare i ritardati. Beh, quello l'hai già fatto, ma comunque lasciamo perdere. No, non intendevo in quel modo lì, ma ti ringrazio di aver chiarito. No, beh, insomma, come sai... È un vero collega. In Veneto vedo che anche voi siete di parte, però. No, io su Gasparri dissento totalmente, perché invece, secondo me, non è nemmeno così. Ma dice una cazzata dietro. Ma ragazzi, ha attaccato quello per l'utero in affitto, ha usato un'espressione che è la sua espressione, fa una battaglia contro politico, fa una battaglia, dai, contro l'adozione, contro l'utero in affitto. Un politico non può parlare così. Vabbè, a te ti fa schifo Gasparri, questa è la realtà. No, cioè, non mi fa schifo, ma no, lui dimostra che vuole fa schifo. Si fa schifo da solo. Sì, solo. Mica, cioè, io quando si guarda quando si guarda allo specchio in faccia la mattina, vomita. Che fa? Vomita, dici. Vomita. Vabbè. Ma non è vero, ragazzi, ma io che vi devo dire? Ma pensa che disgrazia. Cioè, dai, tanto ti querelleranno e ti porteranno in tribunale, ma è quello che vuoi tu, Cioè, e voglio che mi dia. Allora possiamo pure dire che è un pedofilo, che ne so, diciamo pure no, che è un pedofilo. No, beh, quello non ha mai dimostrato di esserlo. Cioè, però siccome io, contro io... i gay, di che è frocio, di che è omosessuale, è omosessuale represso. Hanno questi qua che sono contro i gay, così, sono dei omosessuali depressi. Sì. E dunque anche Gasparri è un omosessuale. Non lo so, no, non ho detto che Gasparri lo sia. Beh, sì, ma Uber, vi do degli esempi. Uber, o comunque i nazisti, sì, che erano così contro l'omosessuale. Uber, il grande era pieno, della era pieno di omosessuali, sì, famoso. Sì. Era un omosessuale tremendo. Sì, ma allora che vogliamo dire di quello là che è il capo di Radio Maria, che dice che dietro tutto c'è Satana, dietro i giornali, la televisione, la legge sui matrimoni, sulle adozioni, dietro tutto c'è Satana. Satana ha ragione. Mica Satana aver torto. Ah, tu dici Satana, tu dici... No, ma secondo me è proprio il loro Gesù Cristo che fa questo, perché dice, cioè? Non è possibile che in Italia siano ancora così indietro, insomma. E dai, che c'entra Gesù Cristo, dici? No, per dire, non è Satana, è Gesù Cristo che fa tutto questo. Lui ha capito, se Gesù Cristo è come dicono loro, capisci? Loro sbagliano personaggio proprio. Ma è possibile che noi italiani siamo gli ultimi a capire? Ragazzi, però... oggi però bisogna incazzarsi su una cosa, su questa vergogna assoluta dei musei capitolini che non fanno vedere le statue nude al presidente iraniano in visita a Roma. Non stringe neanche la mano alle donne. Ragazzi, ma come cazzo si fa a chiudere i musei capitolini, cioè a coprire alcune statue di nudi uomini, peraltro, di fronte al presidente iraniano? Ma come cazzo siamo diventati? Per quelli che sono dei maniaci. Dai, ma come siamo messi? Dai, su, cioè, ma per una forma di rispetto nei confronti del presidente iraniano. E noi facciamo questo, siamo proprio delle... Ma dai, ma siamo veramente delle merde. Delle puttane. Mamma mia, fermi tutti, questo? Torniamo alla dice. Questo? Fermo, il protocollo, il cerimoniale di Palazzo Chigi, Renzi. Un attimo, torniamo con te, Oliviero, 19:15, aspetta. Stavo ascoltando Radio Capital, adesso Zuccone è molto più divertente. La Zanzara. Dio single, Abramo voleva uccidere il suo figliolo, la Maria aveva l'utero a senso unico, Gesù non si è mai sposato, i preti vanno coi bambini e questa gente vorrebbe insegnare come si fanno le famiglie. Beh, direi che questo messaggio lasciato da un ascoltatore riassume tutta la vicenda, caro Parenzo, riassume tutto. Lo so che è una posizione molto radicale la mia, una posizione molto molto radicale, però ripeto, il messaggio dell'ascoltatore direi che pone una parola definitiva, almeno per quello che mi riguarda, sulla questione chiesa, matrimoni gay. In nome di che cosa parla il signor Bagnasco, per esempio? Non è il capo, non è un capo politico, non è stato eletto da nessuno, perché dovrebbe influenzare il Parlamento italiano? Lo so che è stato sempre fatto, lo so che è sempre successo, però prima o poi qualcuno che dice noi ce ne fottiamo di quello che dice il signor Bagnasco, noi ce ne sbattiamo i coglioni di quello che dice. L'hanno detto gli elettori all'epoca del referendum sull'aborto, sul divorzio, quindi insomma... No, ma c'è bisogno ancora di un'altra roba di questo tipo. Ma scusami, ma perché dovremmo interessarci di quello che dice Bagnasco? Beh, ma perché ci sono migliaia, milioni di fedeli che pensano... E questi qua, e secondo questi qua è più importante quello che dice Bagnasco oppure i loro rappresentanti in Parlamento? Questo è il punto fondamentale. Purtroppo è più importante quello che dice Bagnasco, ma è una battaglia legittima. Ma poi quando Bagnasco dice, che per chi non lo sapesse, un alto rappresentante del Vaticano, diciamo così, un altissimo... magari non sanno esattamente il ruolo. Guarda che Mauro D'Amantova sa benissimo chi è il signor Bagnasco, cioè non lo sottovalutare del signor Mauro D'Amantova, sa benissimo chi è. No, non è che non lo sottovaluto, non lo valuto proprio. Comunque, signor Bagnasco, dice la famiglia è importante per lo sviluppo economico del paese. Ma che cazzo vuol dire, signor Bagnasco, amico mio? Non vuol dire una mazza, non è che se si introducono certe cose, che secondo me sono anche, come dire, soft rispetto a quello che vorrei io, no? Perché c'è tutto questo compromesso, formazioni sociali, li mettono in un ghetto, non capisco perché i gay si fanno ghettizzare, invece di andare avanti, dritti sul matrimonio, si fanno fare la formazione sociale, non so come. Ma lasciamo perdere questa cosa qui. Perché il signor Bagnasco parla della famiglia che è importante per lo sviluppo economico del paese? Lo sappiamo già, non c'è bisogno che ce lo ricordi, e queste robe che vengono create non minacciano la famiglia, amico mio, lo sai benissimo, lo sai bene. Mai dobbiamo dimenticare l'identità propria della famiglia e la sua importanza per la stabilità e lo sviluppo economico del paese. La famiglia, come prevede la nostra Costituzione, è il fondamento e il centro del tessuto sociale. Ma non sei tu che mi devi dire come si interpreta la Costituzione, signor Bagnasco. Non sei tu che me lo devi dire, capito? Non sei, io non ne posso più di questi qua. Io non so perché ho accumulato negli anni una tale... come dire, una tale avversità nei confronti del mondo del Vaticano, che veramente qualche volta rischio anche di esagerare, lo capisco io, per carità, però io credo sia legittima, perché non si possono sentire queste cose. Oliviero, dammi una mano tu, ti prego. Ma ti do anche due mani, i piedi, ti do tutto, ma perché ti arrabbi? Sembri un credente, Ma no, mi arrabbio, mi arrabbio. Sentite, signor Bagnasco. Sembra un credente che adesso... Ma hai sentito che voce ha Bagnasco? È una comica. Credo, non è che l'abbiamo mandato lì noi proprio per far votare gli italiani contro la Chiesa. Secondo me è controproducente quello che dice. Ma non può darsi che sia controproducente, ma non no, ti crede. Ma va a finire come col divorzio e l'aborto, ma è logico. Vabbè, ma al di là... Gli italiani sono molto meno... Ma senti che voce ha Bagnasco? Che voce ha? Come è vestito, tutto a posto. È proprio lui che alla famiglia non ci crede, non ci avrebbe mai creduto, mai. Proprio loro che della famiglia le odiano, le donne le odiano, le donne, no? Non sì, vogliono, eh sì. Sono tutti omini, lì, tutti vestiti per benino, rossi, verdi, arancioni, no, viola. Bianchi, neri. Allora sono tutti lì fra uomini che si... Hai presente quella chierica? Sai perché i preti hanno la chierica dietro sulla perché? Testa? Perché hanno la perché chierica? Quando, no, si baciano lì, ah. Si prendono da dietro. Sai che c'hanno quel bottone? Come prendono da capelli? Ah, quando si prendono da dietro, dici? Sì, si baciano lì sulla... sulla nuca. Stasera sei scatenato, cioè tu dici quando si inchiaffettano si baciano sul... Sì, si fanno rasare, la così non gli rimane il pelo in bocca, capito? Ma è cosa pazzesca. No, dai. Dai, è una roba, credo ci sono stati i padovani a inventare. No, io vedi, sono molto rispettoso della Chiesa invece. Ma non che... è rispettoso della Chiesa, rispetto. Ma anch'io sono rispettoso della ma Chiesa. Io sono rispettoso. No, ma io capisco che loro fanno battaglia che, come dire, parlano disegnato la loro comunità. La Chiesa, tu dici, la Chiesa come edificio, tu dici. Come edificio architettonico, anch'io sono rispettoso. Come opera d'arte, dici. Come opera d'arte, come Cappella Sistina, fantastico. Ma tu ti rendi conto che l'altro giorno mi hanno segnalato da Cremona che è andato in pensione con tutti gli onori un tizio che è stato vescovo anche non so dove, credo a Savona, il quale ha coperto per anni tutte le storie di pedofilia ed è andato in pensione, chiamiamola così, in pensione con grandi riconoscimenti dal sindaco, dalla comunità locale, come se nulla fosse, capito? Come... Eh beh, logico, ma dai, certo. Su. Ma io non vorrei ribadire la teoria che già più volte io e Olivier abbiamo diffuso urbi e torbi, che il Vaticano è il centro, come che abbiamo detto, il centro Stato maso, anche mondiale della pedofilia, diciamo, un centro importante della pedofilia mondiale, o sbaglio? Beh, insomma, ha dato dei buoni esempi. Vabbè, Oliviero, abbiamo fatto abbastanza danni per oggi, ti saluto e a presto. Ciao. Dio ti benedica, ciao. No, ma perché mi devi dire queste cose? Ti deve benedire. No, mi sono toccato subito, toccati, appena me l'hai detto. C'è qualcosa da toccare? Beh, ancora sì. Ancora, sì, bravo, ancora. Tu hai ancora qualcosa da toccare, sì? Beh, come no, non hai paura. Viagra Chalis? Come? Viagra Chalis? Achili? Se funziona, sì. Ma veramente Chalis? Vai giù di Chalis e di Viagra? Ma che cosa è stato inventato per fare? No, ma che ne so, ma va benissimo. Infatti mica sto dicendo, ma mica sei un criminale, t'ho detto. Vedrai. Te invece, se prendi Viagra, la tua testa diventerà rossa. Sai perché? Perché? Sai perché? Secondo te. Perché? Serve a cosa il Viagra? Far andare cosa? Il sangue. Testa, sì. Il sangue. Alla testa. Tu dici, ma vai, fanculo, va. Che ti diventano le orecchie rosse. Ma quanto ne usi tu di Chalis o di Viagra? Tutte le volte che parlo con te. Ma dai, su, dai. Ma ogni volta che devi trombare con una prendi il Chalis. No, tutte le volte che arriva la zanzara prendo il prendi Viagra. Prendi il Chalis, il Viagra. Ciao. Ciao. Allora ragazzi, andiamo a Livorno. Giovanni, buonasera Giovanni, vai. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Come andiamo? Bene, sentite, siete simpaticissimi. Anche se avete tanto bisogno. Ecco, l'unica cosa. Dimmi. Bene, l'unica cosa giusta che ha detto il fotografo di Toscani, sì, è stata quando, che Dio vi benedica, ne avete tanto bisogno ragazzi. Avete ma adesso tanto... io a me non me ne frega niente delle benedizioni. Ma guarda, Cruciani. Senti, io voglio crepare senza essere benedetto, va bene? cioè voglio crepare con tranquillità, comunque... senza bisogno di benedizioni, eccetera, eccetera, in maniera soft. L'unica cosa che chiedo è di crepare senza dolore. So che è difficile, allora, so che è una richiesta banale, però è questa. Non me ne frega niente di morire domani mattina, fra vent'anni, tra trent'anni. Basta morire senza dolore. Certo, provocherei dolore, provocherei dolore ad altri, è vero. L'unica cosa che mi dispiace è questa. Sì, ma il resto non me ne può fregare di meno. Basta che sia una cosa veloce, rapida, rapida, veloce. Sono d'accordissimo con te. Vabbè, Giovanni, ma che vuoi allora? Che mi hai chiamato a fare? Allora, sto vedendo per dirvi che te e Parenzo siete due culattoni simpaticissimi e siete anche dissacratori e diabolici. Dovreste fondare voi un bel movimento politico, perlomeno ci fareste un po'. Ma il movimento politico no, amico mio, non ci sono già tanti di movimenti politici. Noi siamo qui a fare un po' di danni, a fare un po' di casino, a divertirci, a dire quello che pensiamo. Basta questo, su, dai. Ma tanto, ascoltami, più danni di quelli che fanno questi cialtroni che ci sono ora. Poi qualcosa, Giovanni, qualcosina io farò per le elezioni, lo sappiamo, qualcosina è in cantiere, però sono cose che non possiamo nemmeno dire, perché altrimenti la prima volta che lo diciamo arrivano le bacchettate da parte dei grandi censori, ma non mi fate parlare di queste cose che mi annoiano, Giovanni. Allora, che mi vuoi dire? Vai al sodo, vai. Allora, al sodo, guardate che non è, spengo il telefonino, aspetta un attimino che rompono questo coglioni. C'è un altro telefonino. Oh, ecco, quanti telefoni c'hai? Sì, sono una persona ricca, ce ne ho due, in fisso ricca, il cellulare. Due, anche, allora, ormai anche gli albanesi ladri ce ne hanno due, quelli sono ricchi in effetti, anche nei campi rom, quelli sono ricchi pure. Non trovo un esempio di un povero, non so perché, cioè, anche i disgraziati ne hanno due, cioè, anche quelli che guadagnano 1.000, 1.500, che è una cosa normale, però comunque certo ricchi non sono. Aspetta, ti faccio assistere in diretta. Chi non è? Mi rompete le scatole, no, sono aspetta, fatti dire chi è, scusa, Giovanni. Giovanni, fatti dire almeno chi è, magari è una donna. Sì, è la mia compagna, probabilmente. La mia compagna. Ma richiamala subito, richiamamela subito in diretta, scusa, richiamamela. Ma non la guarda, è sorda, ci sente poco. Pure sorda, che tasce di sorda la compagna. Due chiamate perse. Che forse è meglio, sorda. Ah no, nessun numero, sono quelli che rompono le scatole per la pubblicità. Dici? Vabbè. Allora, quello che vi volevo dire è che voi confondete la funzione della fica con quella del culo. Però fermo là, ti fermo subito, perché questa è una cosa fondamentale da spiegare. Però prima abbiamo l'interruzione, come sai, no? Siamo verso le 19.30, abbiamo una piccola interruzione. Resta lì che dopo andiamo a fondo a questa storia, tanto per essere in tema, a fondo, no? E mi raccomando, pregate. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana grandi storie al Falco e il Gabbiano. La storia di una persona che ha vissuto un grande amore in uno scenario molto controverso, Claretta Petacci. La disperata vita del più grande bassista di tutti i tempi, Jacob Pastorius. Nancy Kerrigan e il giallo che corre nel ghiaccio sui pattini. 25 anni dopo la guerra in Kuwait, la storia di Maurizio Cocciolone, il pilota che visse 47 giorni terribili in mano agli iracheni. Un match tra il tennis e la droga vissuto fino all'ultimo, la storia di Vitas Gerulaitis. Tutti i giorni alle 15.30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. La Zanzara. Cruciani, ormai ogni volta che devo cagare penso a te che mi dici che mi devo accovacciare e devo fare lo squat. Siamo al top. Caro Parenzo, meanwhile, che significa nel frattempo, ti informo che la figlia di uno dei Marò, il signor Latorre, quello che è tornato perché è malato, ha fatto una specie di coming out, una specie di buffonata, dico io, un coming out pubblico. Dopodiché dice: sono stata fraintesa. Ora la domanda, il grande giallo è: la signora Giulia Latorre, 22 anni, è lesbica oppure no? Questo è il punto fondamentale. So che è un dilemma che attanaglia l'Italia, però da un certo punto di vista potrebbe attanagliare lo stesso Gasparri, no? Che si batte per i Marò, eccetera, e si ritrova la figlia di uno dei Marò che fa professione, no? Di lesbismo, diciamo, dice di essere a favore dell'adozione, dice di essere a favore del matrimonio, eccetera, eccetera. Ah, tu dici che a questo punto... Beh, indirettamente i grandi sostenitori dei Marò, cioè dire Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, e la destra, diciamo, quelli che con più forza sostengono il ritorno dei Marò, accusando il governo di non fare una mazza, si ritrovano un attivista gay proprio in casa Marò. se la vogliamo mettere così, no? Sì, no, è forte, ci sta, sì. Poi bisogna vedere se questa qua sia uscita con una cialtronata oppure con una cosa seria, perché poi, ripeto, qualcuno secondo me deve averla stoppata, perché intervistata subito dopo questo coming out degli amici di Cusano Campus ha detto beh, sono stata fraintesa senza spiegare esattamente bene le cose. Dopodiché è irreperibile. Va. Eravamo con Giovanni da Livorno. Sì, che c'è ancora. Vai Giovanni, allora, dove eravamo? Eravamo rimasti che voi, la vostra mamma, quando siete cresciuti, sì, non vi ha spiegato bene che differenza c'è fra culo e fica. Cioè? Volete che ve la spieghi io? No, posso? Ma tu puoi andare tranquillamente, non c'è problema. Tranquillamente. È allora, un posto molto libero questo, come sai, no? Sì, infatti, siete... Sì, senza che la cosa diventi, come dire, per forza questo. Cioè, si possono spiegare tante cose. Noi abbiamo grande licenza e grande libertà. Anche voi avete grande licenza e grande libertà. Ci è stata concessa forse anche per miracolo, ma ci è stata concessa finché qualcuno ce la concede, sì, continueremo a prendercela, no. Però vai tranquillo Giovanni, vai a spiegare nei limiti non c'è nei limiti della legge, allora, forse. Allora parlo alla livornese. Allora, il culo serve per vuol dire cacare, sì, e la fia serve per trombare, vuol dire. Vabbè, che vuol dire questo, scusa? No, vuol dire questo lo sappiamo, che... c'è una differenza fondamentale. Ah, tu vuoi dire che invece gli omosessuali utilizzano per... questa è una vecchia teoria, però, Giovanni. Capisci al volo. Però attenzione. Però dovresti spiegarlo. Cioè, io invece spiegherei a Don Livio Fanzaga, signor Don Livio, che ha parlato di Satana. Sì. Ah, conosci il signor Don Livio? No, sento spesso Radio Maria. Ah, cioè, tu senti Radio Maria. Un peccatore che a volte fa finta di sentirti. La realtà è che tu, la vera notizia è che tu senti Radio Maria. Sì. E che cosa ti piace? Io sono curioso. Cosa ti piace? Fanzaga? No, ma tanti ascoltatori. Occupa un sacco di frequenze pure, ma lasciamo perdere, dai. Mi piace per una cosa molto semplice. Sì. Siccome tutti gli altri programmi, tutte le altre radio, televisioni fanno schifo. La vostra trasmissione si salva abbastanza. E allora per disperazione guardo le televendite o se no Canale 53 che le dicono di tutti i colori contro tutti. Che c'è su Canale 53, scusa? Canale 53 c'è il famoso professor Vito Monaco con i suoi collaboratori che le dicono... Come no, certo. Ma Canale 53 dove, scusa? Si chiama Canale Italia. Prendiamo appunti, bravo, amico mio. Prendiamo appunti. Dunque tu per... Ma diciamo... lo conosco benissimo perché è una TV del Veneto, Canale Italia. Allora, c'è... Conosco perfettamente. Ma che fanno? Che fanno? Che combinano? Fanno delle cose straordinarie, fanno dei fili diretti. Io figurati, ho lavorato a Telenuovo, conoscevo gli amici di... Vabbè, Giovanni, Italia. Tu prendi quando tutti, ti vuoi caricare, ascolti Don Livio, mi sembra, Don Livio. La Zanzara? Sì, sì. La Zanzara che già è La Zanzara. La Zanzara, poi Canale 53 sul satellitare o digitale, che è? Quello che di notte fa cantando, ballando tutte le canzoni straziacuori, tutte quelle lì, l'orchestra. Stai rovinato. Stai rovinato, stai. Poi dimmi, poi che fai? Di altro, che fai? Niente. E poi senti, no, mi masturbo un po' anche perché c'ho una donna vecchia che a vederla, poverina, proprio ti fa sicuramente voglia. Hai detto che è sorda pure. Sì, è sorda, vecchia, grinzosa, rompiscatole, mamma. Ma scusa, mia, perché te la tieni a fare, amico mio? Perché? Perché ce l'hai? Ascoltami, la ciccia che mi piace a me, avrebbe 20-25 anni e viene con un vecchio di 73, Amico mio, dipende, che vecchio di 73. Ma lei perché non si mette un po' in pace e non si fa una doccia fredda e non si legge un libro anziché... Ma perché se uno c'ha voglia di sesso ancora a 73 anni, perché lo devi condannare così? Ma perché ho mal vissuto ormai, dai. Ma perché? Ai, stasera io sono condannato a morte da voi. Attenzione, anche voi culattoni siete condannati dal Padre Eterno, perché ricordatevi che il buon Livio... Noi non siamo culattoni, però scusami, con tutto rispetto per i culattoni o culimoni, come disse una volta Sgarbi, soprannominandoli culimoni. Bravo, Vittorio, ve lo disse lui. Sì, come disse una volta Sgarbi, noi non lo siamo, comunque, perché ci date i culattoni? Ascoltatemi, vabbè, perché siete... Però tu sei simpatici. Anche abbastanza curioso, tu sei un fan di Don Livio, dici che non bisogna... noi lo pigliamo in giro continuamente, facciamo confusione tra culo e quello che è, invece Dio ha distinto bene... Tu questo stai dicendo, no? Sì, io sto dicendo... Dopodiché sei un porco che vorrebbe farsi una di 20 anni, di 25 anni, cioè, amico mio, c'è qualche contraddizione, come al solito, nei famosi fan del Family Day, no? Dei fan della famiglia, tutti divorziati. malati, tutti perversi, tutta gente che andrebbe a transe domani mattina. È difficile fare la guerra con voi, è difficile, è difficilissimo, lo ammetto. Però attenzione, cioè, tu sei un peccatore, questo è il punto. Renditi conto che tu sei un grande peccatore. Sì, però spesso io mi autoflagello e così spero di guadagnarmi un pezzettino di paradiso. Tu sei un grande peccatore, un perverso, sì, maledetto. Magari vai pure a trance ogni tanto o no? No, quello mai, quello mai, quello mai. Quello mai, vabbè, trance risparmiamoceli. E però sei un fan di Don Livio Fanzaga. Sì, ascoltate, ma guardate che il buon Livio... Guarda, la perversione, cioè, dove può arrivare, Parenzo? Il buon Livio Fanzaga disse qualche anno fa... fammelo dire, importante. Il buon Livio Fanzaga qualche anno fa disse che il Padre Eterno vi ha puniti, o perlomeno li ha puniti, perché gli ha mandato l'AIDS. Ti ricordi quando lo disse? E come no, l'abbiamo mandato in onda. Meraviglioso, quella fu meravigliosa, eh. Ma già per quello uno dovrebbe essere cacciato a pedate nel culo dalla emittente per cui lavora. Però noi vogliamo che rimanga, perché ho detto una minchiata, non dovrebbe essere cacciato a pedate, dovrebbe rimanere lì a dire la sua cercando di rispondere ogni tanto a qualcuno che lo insulta, perché uno non è che può vivere nella sua torre burnea, no? Nella sua torre, no? Turis burnea. Vabbè, Giovanni, che vuoi ancora? Ci hai raccontato le storie meravigliose, passami tua moglie. L'ultima cosa è mi devi passare tua moglie. No, che moglie, è sorda. La vecchia, cioè... la vecchia sorda, raggrinzita, rincoglionita. No, l'ho mandata via in malo modo perché rompe le scatole. La vecchia schifosa, maledetta, quanti anni ha? Sì, ce n'ha 65. Mamma mia, poverina. Mamma mia, che fa schifo, vero? Sì, fa schifo. Fa schifo, però, una cosa orrenda. Ma farai schifo tu. Però io sono un uomo di sani principi e dopo 35 anni... Magari gli vieni pure a sta poveraccia. No, credo no. Non gli meni, no. No, sarei un vigliacco. Però se la guardi ti fa schifo, che schifo. Sì, quello sì. Se la guardi proprio che schifo, come ti sei ridotta. Sono un mezzo santo. Mezzo santo, adesso bisogna allora, vedere. Comunque voi, attenzione, perché la fine del mondo può essere vicina, pentitevi fin tanto che potete. Questa fine del mondo, ma tu chi sei? Un perverso maledetto porco che dice che la moglie fa schifo, uno che tu credi? Beh, insomma, sentite, ognuno ha i suoi difetti, però io ho questo enorme pregio, anche quello dell'autoironia. Beh, autoironia, amico, dici qua che tua moglie, sei venuto qua, dici che tua moglie fa schifo, cioè che è un personaggio un personaggio fastidioso, eccetera, e poi sono io che mi devo pentire. Sì, no, pentitevi voi, perché ma io ti pentitevi di sono... che? Di che cosa ci dobbiamo pentire? Ma di io cosa? Facendo il ruffiano, un pezzettino di paradiso, spero sia sempre un pezzettino, e da lassù io vedrò voi ardere perennemente nelle ma no, ma sei tu, ma scusa, Parenzo, dopo quello che hai detto è lui che arde. No, ma io spero solo una cosa, che questa moglie, questo specie di pedali che dice che gli sta vicino, mi auguro che stia ascoltando la radio, così quando lui torna a casa suona il campanello e dice amore, sono tornato, quella che ha ascoltato la radio... C'ha altro che bastone. No, prima l'ha chiamato, ma quella non c'è, sente, è sorda, per questo lui sta chiamando, è sorda. Bravo Cruciani. Quella è sorda, non sente la radio, che gli frega? Per lui. È la salvezza mia, guarda la televisione senza il volume, perché tanto che lo metto... Capito, quello può dire quello che vuole, è sorda, che gli frega Giovanni? Ma quanto bello sarebbe domani leggere in cronaca a Livorno di un uomo che è stato preso a sassate dalla moglie. Assassate, non ti fare venire espressioni capanniane. Assassate. Esatto. Ciao Giovanni. No, non chiama più, non chiama più. Perché? Perché per fortuna qualcuno è entrato nel suo cazzo di sistema editoriale e siamo riusciti a bloccare. Ma tornerà, certo, tornerà, non c'è dubbio. Scoverà un altro metodo per rompere i coglioni. Cioè. Speriamo. Renato da Milano, Renato vai. Buonasera a tutti. Dimmi. Dunque, un piccolissimo dettaglio. Io ho sentito la conversazione vostra su Gaspari, su Elton John, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. Sono rimasto un po' perplesso perché vedo il signor Parenzo che dice non posso più scendere a Itro. Toscani dice no, quello là è un deficiente perché non capisce queste cose. Combinazione, chiacchierando così, mi sono reso conto che quello che pensavo io non era poi sbagliato, in questo senso. Cioè? Andiamo al sodo, amico mio. Secondo me Elton John è un po' un'esagerazione. 4 lire in tasca, vado a comprare un bambino, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quanto. Tu sei, hai chiamato, hai aspettato per dire che in sostanza Elton John è esagerato. Vabbè, d'accordo. Mi sembra un po' banale, oltretutto mi sembra banale anche chi dice non posso più scendere a Heathrow perché là è il paradiso e noi siamo dei poveri idioti, punto. Questo era l'argomento. Cioè tu vuoi difendere Gasparri in sostanza? Ma sì, mi sembra una cosa naturale, logica quella che ha detto. Elton John è un esagerato e vabbè, non si fermerà mai in questo senso. Vabbè, ciao amico mio, ciao, ciao, ciao. Ciao. Sì, quando è stato sabato o domenica ho sentito, anzi non me la sono vista dopo in streaming, diciamo, la trasmissione di Fabio Fazio. C'era un amico, un carissimo amico ospite, è stato anche qui alla Zanzara procurandosi dei piccoli guai, il quale veniva interrogato sulla modernità, sulla tecnologia, no? Sui danni che fa la tecnologia esasperata. È un po' fissato su questo, ci ha addirittura scritto un libro, caro Parenzo. Io vorrei farti ascoltare la discussione che c'è stata, è stata una discussione sul bagno, sul gabinetto. In particolare la discussione è partita, magari avranno parlato di altre cose, sicuramente adesso non ricordo, di gabinetti giapponesi. Lui se la prendeva con i gabinetti giapponesi, sai quei gabinetti tecnologici che fanno tutto? T'ho spiegato, no, nei mesi scorsi, quando abbiamo affrontato questo argomento, quei gabinetti che praticamente ti puliscono il culo, cioè fanno praticamente tutto, fungono anche da bidet, ti bagnano dappertutto, tu vai là ed esci praticamente in tonso, forse, sì, io non ci credo, perché poi c'è sempre bisogno, come dire, dell'aiuto umano. Sentite. Che cos'è il bagno giapponese? È un monumento alla tecnologia barocca, quella inutile, appunto. Perché questo aggeggio è tanto tutto di porcellana, riscaldato, c'ha il telecomando, l'acqua può circolare in senso orario o antiorario, azzurra o rosa, profumata, con la musica, i canti di Hokkaido, le cose, e in più alla fine esce fuori un aggeggino. Va bene, basta così. L'aggeggino no. Ma non capisco perché Fazio l'ha bloccato sull'aggeggino. Esce fuori un aggeggino. Poi adesso ci faremo spiegare, perché qui ci sono alcune cose che sembra che nel servizio pubblico o nella trasmissione di Fazio non si possano dire, che mi sembra una cosa ridicola. Se tu fai spiegare, cioè se tu fai descrivere il cesso giapponese da un signore che fra poco vi presentiamo, poi lascialo concludere. Esce fuori un aggeggino quale? A me è rimasta così. Io lo so, però a molti sarà rimasto il pensiero. Magari saranno andati a compulsare su Google, magari è pure una tecnica di racconto, una tecnica. Sentiamo ancora, sentiamo. C'era una canzone mia che citava. Cita la canzone, sì, apri la porta. A un guerriero di carta igienica. Cioè, lui dice che l'uso dell'oggetto qui nella canzone che ha cantato Tozzi, insomma, incoraggia la deforestazione. No, incoraggia, è oggettivamente. La causa della deforestazione. Uno degli elementi più importanti. Però, scusa, Mario, non ti piace il bagno giapponese? Non ti piace la carta igienica? Cioè, cosa deve usare uno scuola? No, ma soprattutto la domanda è: qual è l'alternativa? Ma non la vogliamo sapere! Perché non vuole sapere l'alternativa? Non vuole sapere l'alternativa alla carta igienica e al bagno giapponese? Cioè, ma noi la vogliamo sapere l'alternativa? C'è qualcos'altro da sentire? Poi sentiamo. Però è vero, un mio amico medico me l'ha sconsigliata. Perché crea... Basta così? No, ma il punto è un altro. Possibile che con tutto il delirio tecnologico non abbiamo trovato un'alternativa alla distruzione delle foreste primordiali? È la seconda domanda che tutti si stanno facendo. Vabbè, forse l'avete riconosciuto dalla voce, perché è un conduttore televisivo, è stato alla Rai tanti anni, adesso credo alla 7, si chiama Mario Tozzi. Mario, come stai? Ciao, buonasera. Beh, sei un grande, sei un grandissimo. Mario, tra l'altro, ricordiamo il libro che hai scritto sulla tecnologia, dai, ricordiamolo. Sì, si chiama Tecnobarocco e appunto se la piglia con la tecnologia inutile, mica con tutta. Non con tutta, però allora tu stavi parlando del cesso giapponese, giusto o sbaglio? Sì, perché appunto come sa chiunque è andato in Giappone, è un aggeggio veramente mirabile. Addirittura alcune versioni sono riscaldate, c'è una presa USB, l'attacco per l'iPod. Sì, ma cos'è che non va in questa roba? È una cosa meravigliosa, io penso. Invece tu pensi che sia una follia. No, migliorare un oggetto che era già perfetto, come il meccanismo galleggiante sciacquone catenella, era perfetto, inventato addirittura nel XVI secolo, poi perfezionato nel XIX, insomma una roba che funzionava sempre, meccanico, che non ha bisogno di elettricità, perché se tu non c'hai l'elettricità mica ci vai al censo in Giappone, ed è successo le due volte che ci sono andato io per via del fatto che c'era stato un terremoto, e dunque tutti in latrine. E come hai fatto? Sei andato al censo? Nelle latrine, niente, non si può usare, perché quello funziona solo elettricamente. E te la sei fatta sotto? Che hai fatto? L'hai fatta per strada? No, l'ho fatta per strada, come facevano tutti. Per strada l'hai fatta? Eh sì, perché erano delle condizioni disagiate per via di una... Cioè, tu dici che siccome quelli nuovi li fanno solamente con l'elettricità, ma sì, non so se in tutto il Giappone è così, che i cessi sono solo... No, ma non sarà in tutto il Giappone, però voglio dirti, che senso c'ha migliorare una cosa già... Ecco la tecnologia barocca, quello è già perfetto, che se non c'ha nessun senso renderlo elettrico. Ma invece sono delle invenzioni meravigliose, ma con l'acqua che esce da sotto, che ti pulisce il sedere... No, ma non ho capito la critica dell'amico... No, lui dice che l'eccessiva tecnologia produce sperpero di risorse, questo è il punto, no? Danni ambientali, perché poi dopo se la corrente elettrica la devi produrre in qualche maniera. E vabbè, la corrente elettrica... E poi tutto quello che ci metti per fare quel contenuto tecnologico forse avresti potuto concentrare in oggetti un po' che magari funzionavano male. Vabbè, ma se non ci fosse, scusami Mario, la mia contestazione, sai che io ti stimo, però ti contesto su tutta la linea. Perché la cosa è questa. È vero che alcune cose sono inutili della tecnologia, per carità, ma migliorare... io sono per le cose tradizionali, fra poco te lo dirò, l'ho detto più volte qui alla radio negli ultimi mesi, suscitando lo scandalo di Parenzo e di altri, non si può parlare di come ci si pulisce il culo, invece è una cosa fondamentale, e tu stesso lo dimostri, perché hai parlato in una trasmissione popolare come quella di Fazio proprio di questo argomento, cioè dire pulirsi il culo, perché è fondamentale. Beh, come no, era così, l'argomento è quello, perché Fazio non ha il coraggio di dire le cose come stanno. No, ma è bello invece anche parlare per immagini più che immagini, ma se non spieghi che cos'era quella cosa che usciva fuori, scusa Mario. È una doccettina che serve per mettersi il sedere. Beh, ho capito, ma qual è lo scandalo di dirlo a Rai 3, questa cosa del genere? Cioè, non mi pare... Ma vabbè, quello è il conduttore, mica sono io. No, ma questo lo dico io, infatti, mica l'ho detto. Io lo capisco, giusto. Cioè... Ma che cosa? Che se descrivi la doccettina che ti pulisce il culo, no, crei scandalo. Uno può anche dire, guarda, questi strumenti sono dati anche di una doccettina grazie alla quale ti puoi garantire una igiene perfetta. Ma infatti quello non era fatto nemmeno. Vabbè. Così, si capisce, siccome si parla. La doccettina per pulirti il sedere, vuoi che il sederino, vuoi che ti dica così? No, che ti fa scomparire, che ti fa scomparire tutto. A parte che secondo me, adesso lo chiedo a Mario, secondo me senza l'intervento provvidenziale della mano non si fa nulla. Diciamola tutta, Mario, o no? Ma è quello che dico anch'io. Nel libro, infatti, questo capitolo si chiama Mano nuda versus. Beh, amico mio, qui stai sfondando una porta aperta, caro Mario. Stai sfondando una porta aperta. Mano nuda forever. Mano nuda forever. No, ma non capisco la tua eccitazione. Mentre lui è uno scienziato, quindi parla da scienziato, anche di queste cose. Non capisco la tua eccitazione. Scienziato, questo utilizzo. Un divulgatore, un divulgatore. È uno scienziato, un divulgatore. Scienziato. Di queste cose. Faccio il ricercatore, effettivamente. Sì, vabbè. No, che invece mi stupisce è l'eccitazione che Cruciani ha per l'uso della mano. No, e io capisco la tua critica, però ma io. Non per snobberia, sai? No, io mi esalto per queste cose qui perché voglio trovare interlocutori che sono in apparenza serissimi, come Mario Tozzi. I quali però hanno il coraggio di affrontare temi comuni a tutti, che sono quelli della pulizia personale e del buco del sedere, perché è una cosa che abbiamo. Parenzo, ce l'hai anche tu il buco del sedere? Come lo pulisci? Questo, come lo netti? Come liberi gli arbusti che sono intorno? È un tema, capisco che è un tema privato, le parti intime, un tema privato, che però inevitabilmente, siccome ha a che fare col pianeta, come dice Tozzi, con lo sperpero di risorse, con l'acqua, con l'elettricità, diventa un problema mondiale importantissimo, no, fondamentale. La cosa maligna è che tu del pianeta te ne fotti. Sì, è vero, ma infatti aspetta, no, questo è vero, questo è vero, questo è vero, questo è vero, questo è vero. Che mi manda in azione, uno dice improvvisamente ecologico. Sì, diventa... No. L'aspetto che ti piace di più non è il salvare una pianta. E che cos'è? Quello che ti piace. Fermo. Giuseppe, vi voglio bene. La Zanzara. così, guarda, io ti consiglio una cosa, carica il podcast, ascoltati e sentirai quanto sei noioso. Allora, dopo aver parlato di Elton John, di Gasparri, con Toscani, della vicenda immigrazione, di quello che è successo in Svezia, abbiamo parlato poco, in realtà di questa cosa gravissima, diciamola Parenzo, diciamola chiaramente, un profugo che ha ammazzato una ragazza che lavorava a favore degli stessi profughi, a favore degli stessi profughi. Una storia terribile. Una storia terrificante, oscena, diciamo la verità. Oscena. Dopo aver accennato, forse poco, alla scandalosa vicenda dei monumenti, delle statue di nudo che ci sono ai Musei Capitolini, incredibilmente oscurati, perché non devono essere visti questi monumenti, queste statue, dal presidente iraniano, il quale, guarda, secondo me... Il problema non è quello, tu fai tutto sto casino su questa roba. Il problema è semmai criticare l'Iran per quello che fa. Vabbè, ma quello, ma che c'entra? Ma quello no. Lo sappiamo, ma che cioè, c'entra questo? Ma in questo momento la polemica è sulle statue, non su quello che fa l'Iran. Chi se ne frega? È una stupidaggine. Ma ho capito, ma in questo momento... In 30 secondi, con la logica... Sei veramente di una noia mortale, guarda. No, ma non è noioso in realtà, è intelligente, credo, e te lo spiego. Perché o tu critichi l'Iran e quindi lo inviti, però siccome ci fai gli affari, lo inviti, per rispetto copri le statue. Allora la logica vorrebbe invece tutt'altro, ecco perché non è noioso, perché è una contraddizione chi attacca la copertura delle statue, però non si guarda che la gente non ha capito quello che stai dicendo, spiegalo meglio in italiano, spiegalo in italiano. È molto molto semplice, eh. O ci si indigna perché l'Iran è un paese ma che quello, fa ma quello va bene, quello, c'è un sacco di gente che si indigna per questo. Oppure se tu lo inviti perché ci devi fare degli affari, sì, lo inviti, ci fai gli affari. E che fai? Copri le statue, copri le statue dei musei, buono, ti vergogni delle statue dei Musei Capitolini, ti vergogni delle statue. Se te lo vuoi ingraziare, dai, ma è una vergogna, dai. Lo copri le statue. È una vergogna, allora, dai. Invece mi indignerei per quello che l'Iran sì, fa. Ma tu vuoi dire, e non hai il coraggio di dirlo fino in fondo, che sei d'accordo col fatto di coprire le statue in forma di rispetto a un paese con cui dobbiamo fare affari. Non hai il coraggio di dirlo, non hai il coraggio di dirlo. No, calma, io intanto non voglio fare nessuna, io intanto non l'Iran. Vabbè, però adesso mi hai portato su questo argomento di cui non lo reputo. Se tu sei contro l'Iran e ritieni che quel paese faccia delle porcherie, non è che però in base al cosiddetto business lo inviti e poi no, lo inviti. No, questo è un altro discorso, questo è un altro discorso. Qui ci sono, qui siamo di fronte al fatto che quello è un nostro patrimonio culturale e tu, siccome quello deve andare a visitare o deve passare attraverso i Musei Capitolini, tu oscuri le viste del nudo. È una visita che serve all'Italia per fare. Non ne posso più di queste giustificazioni. Voglio riprendere con Mario Tozzi, presentatore televisivo, ricercatore, quello che è, che ha scritto un libro sulla tecnologia. Stavamo parlando dei cessi, caro Mario. Bagni, gabinetti, cosa fondamentale. E allora io voglio capire il doccino, ma soprattutto che cos'era la tua preferenza per la mano. Io sostengo che anzi, la tua avversione nei confronti della carta igienica, questa mi sembra fondamentale. Cioè, tu non usi carta igienica? Cerco di non usarla, perché l'avversione deriva da che cosa? Dal fatto che per fare quella carta igienica qui, siccome noi non la vogliamo normale, crespa, riciclata, come pure si può produrre, qualcuno la fa, sì, perché c'ha un brutto colore, che ne so, non c'hai quattro veri, eccetera, la facciamo con la pompa di cellulosa, addirittura utilizzando per questo le foreste del Canada, cioè le foreste uniche, primarie e boreali che ci sono rimaste. Vabbè, non è che sarà tutta, tu dici, addirittura per la carta igienica facciamo un disastro di questo tipo? No, lo so, non è che lo so, sono stato lì e da poco è stato concluso un accordo tra la British Columbia, i produttori di carta igienica, cioè Italia Legna lì, che poi la danno per la carta igienica, e l'associazione ambientalista per cioè tu dici, un terzo quando uno si deve pulire il culo con la carta igienica, il sedere, come utilizzate l'espressione che volete, bisogna pensare a un albero canadese che se ne va via, questo è il punto. No, ma un albero primordiale, cioè stiamo parlando del cedro rosso occidentale, roba insomma seria. Parenzo dice che a me non me ne frega niente di queste cose, e devo dire che un po'... No, ma non ci sono più quelle foreste, poi non respiriamo, ci siamo nettati bene le chiappe, ma non respiriamo più bene. Adesso io non so qual è la cosa migliore. Forse. Vabbè, però dimmi la verità, tu usi la mano, diciamola tutta. Quando poi. Ma io pure uso la mano, lo confesso, uso la mano. Cioè, l'alternativa qual è? Preferisco fare usare limitatamente la carta e dove c'è la possibilità. E andare di mano. E andare di mano. Però scusa, questo è un problema. Oppure mano, oppure cosa? No, qual è l'alternativa? Dicendo, possibile che con tutta la tecnologia che abbiamo siamo riusciti a trovare un sistema alternativo? Sì, questo è quello che hai detto da Fazio, d'accordo, ma l'alternativa qual è secondo te? Cioè si può andare avanti, che ne so, a pannicelli caldi per pulirsi il culo o con la mano, eccetera? Cioè si può eliminare del tutto la carta igienica e rimanere puliti, questo è il punto? E intanto si potrebbe usare la riciclata, già sarebbe un... Vabbè, la carta igienica riciclata, vabbè, d'accordo. Però. No, ma io da che cosa nasce questa considerazione? Quando vai nell'aeroporto, visto che ci sono quei nuovi aggeggi per asciugarti le mani, ionizzarle, eccetera... Sì, io le odio, li odio quelli, li odio. E io odio pure quelli. Però ti voglio dire, lì ci abbiamo messo un sacco di tecnologia per le mani. Per le chiappe no, non capisco perché. Sì, tu dici, li odi, allora, però costano energia, tu dici. Cioè... Costano energia, consumano molto meno di quelli col bottone rosso di un tempo, però sì, sarebbe meglio l'asciugamano a strappo di stoffa, come che poi si rilava. Solito asciugamano di stoffa. E tu dici, che cosa dovremmo fare col culo? Tu dici, no, su questo non me lo so come problema, me lo sono posto per qualcuno che ha studiato tutti questi altri. Cioè dici, per eliminare la carta, tu dici, per eliminare la carta bisogna utilizzare, rinnovarsi con, e non arrivare al Giappone, perché là c'è spreco di, tu dici, di energia elettrica, però una via di mezzo, una cosa che sia pulita, tra virgolette, o sbaglio? Oppure scegliamo decisamente la carta riciclata, io faccio pure nei, guarda che la carta igienica è una invenzione recente. Comunque gli alberi, poi, nessuno... gli alberi poi si ripiantano, non è che si perdono, si ripiantano gli alberi. No, non gli alberi, non gli alberi delle foreste primordiali. No, vabbè, ma non è che uno deve arrivare per forza agli alberi delle foreste e primordiali. Fanno, ma lo fanno, è quello che fanno, perché è più comodo, sono già lì. Senti, però con te vorrei fare un altro tipo di ragionamento, questo è molto importante, ancora io speravo che tu avessi una risposta. Cioè, qual è l'alternativa? La risposta qual è? Cioè, l'alternativa qual è più seria? Tu dici alla fine o la carta riciclata, vabbè, d'accordo, oppure che costa di più. Usarne poca e poi passare, diciamo, la mano, la mano. Di lavarsi. La mano, la mano, un po' di sapone, poco sapone magari, poco. Ma insomma, lì poi ognuno ci avrà le sue cose. Beh, no, il sapone pure inquina o no? Il sapone, no, ormai sono biodegradabili, diciamo questo, sì. Ma tu nota che in romanzi famosi che voi conoscete senz'altro, nell'Ulisse, questi si nettavano con strisce di giornale già usato, dunque un giornale a lettura, sì, agganciate con un uncino al bagno che era fuori. Io non è che voglio tornare a quello, ma nessuno si sarebbe sognato di usare carta. No, però pura tu stai dicendo, perché non si può tornare a quello? Tu stai dicendo, i giornali utilizziamoli. No, il giornale no, perché c'ha un sacco di problemi, c'ha l'inchiostro, c'ha le cose, ma non è una carta che non si può, noi siamo più avanti. Però il doccino, mi dicono persone molto informate e anche molto pulite da questo punto di vista, che il doccino è perfetto, pulisce benissimo, diciamo la verità. Il doccino pulisce benissimo, però se non c'è l'elettricità non funziona, dunque ci sono 2 miliardi di persone e al poi mondo si che spreca, non vorranno mai si, vedere. Si spreca troppa energia, dici tu. Si e spreca. Poi spreca energia e soprattutto... Bocciato il doccino, caro avvocato che mi ha mandato un messaggio, Parenzo, l'avvocato mi ha mandato un messaggio, ha detto... L'avvocato trucco? No, un avvocato, perché devi sempre specificare? Mi ha mandato un messaggio... Per me non esiste praticamente... Altri avvocati in giro per il mondo, d'accordo. Doccino perfetto, pulisce benissimo, però bocciato da Tozzi, dunque, amici miei, fate i conti con questo. La cosa che voglio chiedere a Mario è questa. Mario Tozzi, che come sapete è una persona che si può definire ecologista, no? Della prima ora. Ecco, tu quante volte ti lavi durante la settimana? Perché questa è una questione fondamentale, caro Mario. Quante volte ti lavi? Io mi lavo tutti i giorni, stando attento all'acqua che spreco. Vabbè, d'accordo, ma la doccia, per esempio, tutti i giorni. Vabbè, ma allora sei uno pulito, dai. Eh no, sto attento però. No, ma sei uno pulito nel senso che sei uno che spreca un sacco di cose, non sei coerente. No, non si può fare la doccia ogni giorno. Sono coerente. No, sicuramente figurati, ti puoi immaginare se sono coerente. Cerco di essere più coerente possibile, poi ci riesco fino a dove posso. Le mutande, quante volte le cambi le mutande? Una volta al giorno. Una volta al giorno. Le camicie? Le camicie anche riesco a metterle anche per 2 giorni. Per 2 giorni, ecco, qui siamo già su. Perché? Che c'è le camicie 2 giorni? Che male c'è? Ma che schifo, ragazzi, io faccio la doccia tutti i giorni. Cioè, per esempio, è giusto scaricare il cesso ogni giorno, secondo te? C'è tempo fa qualcuno che sosteneva, ma se non sbaglio. Grillo? No, qualcuno sosteneva. Ma che c'era Grillo? Come no? Mi ricordo bene. No, perché questo derivava dal fatto che lo sciacquone intero butta via 15-18 litri d'acqua. Quindi, se tu per la pipì usi quello, è francamente un po' sovradimensionato. Per questo hanno fatto i 2 pulsanti, no? Ce n'è uno che consuma. Vabbè, d'accordo, siamo quello che già c'è, ma secondo te va tenuto il cesso, cioè va scaricato poche volte o no? No, secondo me quello c'è apposta per essere scaricato, però vedi, il problema è che quell'acqua del cesso, è lì il problema, non è, è un'acqua risorgente, cioè è acqua potabile, dovresti vabbè, usare ma l'acqua mio, ma dobbiamo non possiamo impazzire con queste cose, dobbiamo scaricare poi a un certo punto, sennò puzza. No, però tu guarda che a Bologna ci sono tanti condomini che hanno il doppio circuito, come ce l'aveva mia nonna, qui non si tratta di un ritorno al futuro, qui si tratta di un ritorno al passato. Comunque guarda, come che una doccia al giorno è esagerata, stai sprecando un sacco di cose, quindi mi ricordo tempo fa... Tempo fa Fulco Pratesi disse una cosa fondamentale: una al giorno è esagerata, basta ogni tre. Poi certo bisogna lavarsi a pezzi, piedi, parti delicate, ascelle, strofinando dove serve. Vabbè, ognuno fa le sue scelte. Però scusa, per esempio i denti, lui dice mi lavo i denti bagnando appena lo spazzolino senza lasciarlo. Io mi lavo i denti solo con un bicchiere, sicuro lo faccio. Non mi faccio la barba sotto la doccia ma nel lavandino mezzo pieno. Mi faccio la barba e il lavandino tappato, sì, pure io. Le camicie, perché cambiarle ogni giorno solo per un'ombreggiatura al collo? Io lo faccio ogni due, su questo siamo... No, per esempio, le lenzuola le togliamo ogni due settimane, giusto? Che schifo. No, io meno, veramente. Meno? Ma allora sei... Vabbè, sei un ecologista finto, dai, su, Ma come finto? Sei assolutamente finto, dai. Sei bravo solo a fare il cunnilingus, che è pure pericoloso, ma dai. No, basta. Vabbè, Mario, ciao, a presto, ciao, ciao. Arrivederci, ragazzi, ciao. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Intanto mi segnalano, Parenzo, che in realtà i famosi bagni giapponesi descritti prima da Tozzi, tutti tecnologici, eccetera, sì. In questi bagni giapponesi i doccini possono anche non essere elettrici. Gli stessi bagni forse funzionano senza elettricità in alcuni casi. Forse solo i doccini. Comunque esistono doccini che funzionano senza elettricità. Vabbè, ci torneremo. Gianni, provincia di Piacenza, vai Gianni. Fermi tutti niente. Però, prima di Gianni. Albanese, Antonio Albanese e la famiglia tradizionale, meraviglioso. La più tradizionale delle famiglie, Gesù, Giuseppe e Maria. Mi scusi, eccellenza, mi scusi, colleghi, scusate se interrompo. A proposito della famiglia tradizionale, un poco di precisazione. Ricapitolando, la Madonna è una ragazza madre che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. Il figlio è legittimo, il compagno di lei non è il padre del bambino. Il padre biologico non si è mai presentato e risulta senza fissa dimora. Ciò nonostante Giuseppe, bravo uomo, riconosce il figlio di Maria come il suo e decide di allevarlo con la donna che ama. E se questa è la famiglia tradizionale, scusa, era solo per precisare e lanciare il dibattito. Ma te lo ricordi questo o no? Non te lo ricordavi? No, però stupendo. Ma guarda che è stupendo, perché c'è un gruppo di preti che sono a un convegno, eccetera. Ma come finisci? Solo per lanciare il dibattito, solo per stimolare il dibattito. Questa è una famiglia tradizionale, quella che dà origine a tutta la religione, no? Solo per sviluppare il dibattito. Tutti questi che guardavano attoniti. Vabbè, Gianni, vai, Gianni. Io volevo dirti solamente poche cose, visto che proprio a riguardo di questa ultima. Sì. Quando arriverà la mano di Dio, arriverà pesante. Ma su anche chi? A perdere la stessa carne. Ma su chi arriverà? Scusami, su chi arriverà la mano di Dio? Offendere Dio ogni minuto, ogni ciclo, e giocarci come ha fatto Albanese adesso. Sì. Prima o poi arriva, e quando arriva ti stacca la carne di dosso. Ma non chi... solo a te. Sì. Anche al giudeo e a quel panzone del tuo direttore. Il panzone del direttore sarà contento, il signor Napoletano, e ha chiuso il telefono il signor Gianni della provincia di Piacenza, che sostanzialmente dice che all'ebreo, a me, che non, per fortuna non mi ha identificato con nulla, sì, con e nulla. Al panzone del direttore, il signor Napoletano, che in realtà è religiosissimo, cioè credo anche praticante, dunque voglio segnalarlo così, magari sarà salvato dalla furia di Dio, dalla furia di Dio, fermi tutti. Dopo che fai? Quando vai a dormire ti sogni traffico. La zanzara. Oh Cruciani, sono un camionista. Cioè ti sembra così strano il fatto che i gay... e fanno ste cose in autostrada, cioè pure sei, capito, sei uno brillante e così, ma è strano che non ci credi, capito? Io appena mi risuccede una sera ti faccio un video, io come vedo uno che mi passa, che mi comincia a fare gli stop come fanno loro, ti si mettono davanti, io ti faccio un video. Cruciani, ma hai visto sta notizia del... hanno coperto i nudi, cioè i bronzi, le statue di nudo, non so, una galleria, non so dove, un museo, per rispetto nei confronti del presidente iraniano. Ma siamo pazzi, cioè, non ci posso credere. Io quando vado in Iran devono coprire con un velo tutto, perché mi sta sul cazzo tutto. Voglio vedere quando atterro con l'aereo, voglio vedere una lenzuolata nera. Nera, tutto nero, neanche le donne che fanno schifo, tutto nero, tutto nero. Svegliare la propria ragazza con la tecnica del forno olandese. Fatto. Oh, intanto è tornato il forno olandese, per il camionista che ci ha chiamato al 393-71-71-701 con i messaggi WhatsApp. Naturalmente non ci ha chiamato, ancora c'è qualcuno che chiama a questo numero inutilmente, perché tanto non vi risponderà mai nessuno. E dico che siamo qui ad aspettare il suo video sui camionisti. Siamo qui, aspettiamo, aspettiamo. Mantova, Joseph, Mantova, vai. Joseph? Joseph? Sì, ciao. Dimmi. Ciao, ascolta, io volevo parlarti appunto del fatto dei matrimoni gay, quello che stanno, sì, vai. Facendo adesso, ecco. È un po' un casino, perché comunque la famiglia tradizionale non è un'invenzione nostra, nel senso che è sempre stata prescritta così, secondo me. Sia da Dio per chi crede e non da Dio per chi non crede. E chi la vuole mettere però, in discussione? Beh, scusami, Joseph, non è che si elimina una famiglia a favore dell'altra, eh? Cioè, ho capito, però quando dopo inizieranno ad esserci troppe mescolanze... Ma quali troppe mescolanze? Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Ma diventa, cioè, facile. Diventa facile cosa? Uno, c'è, cioè, un improvvisamente ci saranno più froci, non ho capito. Ci saranno più omosessuali. Già ce ne sono tanti, a mio avviso. Sì, ma ci sono, ma quelli che ci sono. Cioè, non è che si creano per contagio, non è che si creano per emulazione. Cioè, tu pensi che si creino per emulazione? No, secondo me, se non è questione di dargli troppa libertà, però già ce ne sono tanti. Se dopo iniziano ad avere gli stessi diritti che hai tu, con quel che devi fare veramente, cioè una famiglia tradizionale, come la chiamano tutti, no? Dopodiché, quando anche loro inizieranno a far così, anch'io allora mollo mia moglie, vado a sposarmi con uno, e il giorno in cui non va più bene, questo qua mi mantiene, capito? Sì. Secondo me diventa un po' un casino dopo, alla fine, se andiamo a vedere. È un casino, e molto in altri paesi si è fatto tutto senza problemi. Un problema certamente serio è quello dei soldi per le pensioni, non c'è dubbio. Questa cosa qui, ecco, comporterà esatto, probabilmente quello, un peso, scusa, un esborso. Però, insomma, ragazzi, non è quello il punto. Infatti a me non me ne frega niente di queste piccolezze, cioè la questione delle pensioni, la questione delle cose. Tutto si supera volendo. Quanto costerà questa roba? Costerà un po', e vabbè, ci sono tante cose che costano. Se uno vuole introdurre questa cosa, avrà un costo. Che vogliamo fare? Tanto quei soldi, cioè, io non sono tanto d'accordo sulla reversibilità della pensione, per esempio. Ma perché? Cioè, no, ma non, cioè, non è una cosa che mi... Cioè, non è una di quelle cose per cui faccio la battaglia, capito? La battaglia è più di principio che sui dettagli, la reversibilità. Ma sui dettagli, io già sono d'accordo, io, perché non sono d'accordo nemmeno tra quella degli eterosessuali, cioè, capito? Cioè, questo è il punto. Ma tu, non c'è nessuna logica, però. Cioè, qui si tratta, no, semplicemente che due persone che vivono insieme e che si amano indipendentemente dal sesso possono passarsi la, sì, loro pensione. Fine, non è che c'è da essere. No, ma infatti io sono cosa vuol, no, dire essere contrario. No, ma io non sono roba contrario a quella tra gli omosessuali. Sono un po' contrario anche a quella tra etero, capito? Nei matrimoni, ma tradizionali. Perché? Ma non c'è logica. Perché non la reversibilità. Perché non vuoi aiutare la persona che è stata con te, va bene? No, non è quello il punto. Cioè, io non puoi lasciare niente a nessuno. No, il trasferimento dei beni è una cosa. La pensione pagata dello Stato è un'altra cosa. È un'altra cosa. La pensione della persona che è stata con te una vita, che poi dipende da quanto, da che reddito hai tu, da quante cose ti lasciano. Dovrebbe essere indipendentemente da quello, non dovrebbe essere indipendente da quello. Se tu c'hai milioni e milioni di euro, poi pigli pure una pensione, lo Stato può fare a meno di darti una pensione se tu hai già un reddito cospicuo, scusami, questo è il punto. Potrebbe fare e a meno di sono soldi che ha pagato e che soldi che ha messo e da che parte, è, ma infatti però è morto, e a un certo punto, no, quello è morto, si tratta pur sempre di soldi che questo signore ha messo da parte. Ma ho capito, ma è morto signore. Però vabbè, comunque è un discorso troppo ampio. Ciao. Allora ragazzi, è inutile che vi presento la persona che c'è adesso ai nostri microfoni. Hanno avuto un colloquio telefonico nel pomeriggio con Davide Parenzo e qui ai nostri microfoni alla radio, per dirla in francese, au micro de la radio italienne, la radio 24, la Zanzara Moustique, Claudio Lippi. Buonasera, buonasera. Buonasera Cruciale, buonasera David. Come stai? La voce è ottima, innanzitutto, bene, devo dire. La voce mi sembra chiarissima, o no? La voce è chiarissima e sono in totale ripresa, nonostante lo spavento, ma insomma poi alla fine si è risolta con giuste terapie, con giusta assistenza. Sì, sì. Volevo fare gli auguri per il decennale, perdonatemi, ma... Fai tutto quello che vuoi, dimmi. Mi risulta che siano 10 anni dall'esordio della Zanzara. Devo Beh, dire io ti ringrazio anni... moltissimo, 10 anni è vero, formalmente 10 anni, Parenzo è presente da meno, da 6, comunque... Ma unisco anche Luca Telese che l'aveva preceduto, per carità, essendo un affezionato, compatibilmente agli orari di ascoltatore, mi sembrava doveroso, perché durare 10 anni, sì, anche se radiofonicamente, credo che sia, nonostante una trasmissione che comunque è sempre molto provocatoria... Assolutamente, molto più che provocatoria, diciamolo sì, pure. Sì, sì, ma sai cos'è? Che mi sto rendendo conto, ed è una delle cose che mi ha... i 7 giorni in terapia intensiva, sì, hanno fatto molto di più dei 70 anni di vita. Perché? Ho avuto modo di rivedere, perché ho riflettuto. Bene. E ho riflettuto su moltissimi temi. Per esempio? Poi per esempio, proprio la logica per la quale, ad esempio, si parla di rottamazione e quant'altro, mi ha convinto che forse si è un po' equivocato sul fatto di rottamare. È chiaro che sembra soltanto prodomo mea, però ci sono delle cose che se durano tanto vuol dire che intanto alternano e hanno, per voi ascoltatori che non sono magari sempre gli stessi, ma sì, anche lo fossero, hanno 10 anni di più di 10 anni fa. Quindi vuol dire che comunque qualcosa deve durare, può durare se ho... Sì, se hai anche la forza ogni tanto di cambiare, se gli sbagli li sai gestire, se gli errori li sai gestire, se hai anche un pizzico di fortuna, ma credo che sempre se ti impegni hai la forza di far andare avanti un prodotto. Questo vale per tutti, ovviamente, ma la rottamazione mi interessa. Ti ringrazio innanzitutto di aver ricordato. Noi non l'abbiamo fatto, lo sai perché? Perché noi siamo, in realtà io forse sono molto allergico... Sì, tu manco appunto, perché io sono molto allergico a queste cose, però mi fa piacere che Claudio Lippi... Ci sono 10 anni? No, il 9 gennaio. No, sì. Il 9 gennaio, ma ha fatto bene Claudio a ricordarlo, perché il 9 gennaio erano 10 anni di Zanzara. Io, ripeto, forse perché è caduto anche, credo, era un sabato o una domenica, anzi sicuramente era un sabato o domenica, dunque il giorno preciso, diciamo, non ho detto nulla perché non ero in onda, però Claudio ha fatto bene a ricordarlo e mi fa piacere che l'abbia ricordato lui, perché in realtà... Cosa vuole dire? Vuole dire che io non sono da rottamare, vuol dire, mi riferisco a Claudio Lippi, cioè non ti senti rottamato, questo è il punto. Chi no? ha voglia ancora di intanto di vivere i tempi. È chiaro che se noi continuiamo a confrontare il passato con il presente, chi ha un passato rischia di diventare più nostalgico che obiettivo. Sì, è chiaro che ci sono cose del passato che chi le ha vissute le rimpiange, ma siccome si vive oggi, e io spero ovviamente, facendo anche tutti gli scongiuri... Quanti anni hai tu, Solida Claudio, che non mi ricordo più? 70 e mezzo. 75, sei poco più giovane di Berlusconi, diciamo. Beh, abbastanza però. Sì. Beh no, se Berlusconi ne ha 76 anni, 76 mi sembra, non sbaglio. Beh, tu hai detto 70, 70 e mezzo, hai detto 60. No, Berlusconi, se non sbaglio, ne ha 76? Sì, 76, 77. Sì, 77, vabbè. Sì, forse 77. 77. Però, adesso, senza entrare nel merito di nessun tipo di giudizio, perché non mi appartiene... No, ma mica è quello, appunto. Mi sembra, tutto sommato, che ci sia, per molti soggetti... Ho letto oggi che la signora Zanicchi, che credo sia universalmente nota, parteciperà a Ballando con le Stelle. Sì. Che, per carità, non è che sia un fatto per il quale il mondo si fermerà. Ma tu lo faresti? No, io non lo faccio perché ho un'idiosincrasia per il ballo proprio. Ma guarda che là cercano pure quelli che non, anzi, soprattutto quelli che non sono capaci. Ma io ho sempre cercato nella vita di fare quello che sto fare. Poi cerco disperatamente di imparare a fare qualunque cosa che mi piace. Dunque, diciamo, andando contro la rottamazione, hai detto che un po' la rottamazione di Renzi non ti piace. Non mi piace il concetto, perché poi alla fine è chiaro che la rottamazione va fatta per chi si è mai rubato. Questo mi sembra molto, vabbè, questo diverso. È scontato. Quello ed è banale, però, anche molto, sì, abbastanza banale, sì, però demagogico. No, però è vero che è vero, io ho sempre sostenuto questo, devo dire la verità, che l'età non conta una mazza. Anche quando uno mi diceva no, ma i giovani non c'entra il cervello, ci sono tanti giovani completamente rincoglioniti, secondo me, e un sacco di gente over 60, over 70, quello che è, chiamateli come volete, anziani, non anziani, che stanno, che hanno due palle così, diciamo la verità, che hanno due palle così e che hanno pensieri molto più moderni, se vogliamo, anche se poi sulla modernità uno può interrogarsi mille volte, e sono molto più veloci di tantissime persone che invece sono dei morti di sonno. Vabbè, io la cosa che voglio capire da Claudio però è questa. Dimmi, allora, dimmi. Ma è vero che tu non hai più una casa, non hai nulla, è vero o no? No, io non ho più una casa, è stato forse, mi sono espresso male io. Io non ho mai avuto casa di proprietà, ma che è diverso. Ah, ok, ho capito. No? Mai avuto, dunque, dove vivi adesso? Mai avuto casa di proprietà, quindi lì non ho avuto la capacità. Che è strano, certo. Tu i soldi li hai fatti nella vita, eh? Cioè, non io è... i soldi ne ho fatti, ne ho spesi. Cioè, adesso quanto hai in banca, per esempio? Vedo che pochissimo, no, ma guarda che, cioè, non hai più di 10.000 euro? No, meno di 5.000. No, ho crediti, ma non assolti, quindi, per carità, non. No, ma concretamente, se uno va a vedere sul tuo conto adesso, lo sai, io sono molto trasparente in questa cosa qua. Uno, certo, va là, fai Claudio Lippi, apri il conto, se non so se lo apri via internet o vai in banca, vai lì, quanti soldi ci sono? Non credo più di 7.000 euro. Non credo più. Cioè, ma la cosa mi impressiona, perché sai perché? Perché io sicuramente nella vita guadagnerò meno di te. E l'idea di arrivare, poi magari te la sei goduta, e le hai spesi tutti bene. Ma ha avuto anche tante spese, che c'è da volere? Allora, mi sembra opportuno, per carità. Siccome sono tempi nei quali su una notizia, su un momento di verità, che ho interpretato come... più un parlare a me stesso, certamente, sì, utilizzando quella che è per natura una riconoscibilità, perché da 50 anni, Claudio, allora, io ti faccio parlare di questa cosa tranquillamente, come, perché è quello che volevo, sì, chiamandoti, sì, però c'è, sì, la pubblicità che tu conosci bene. E poi torniamo con la verità, ma quella vera, però, non quella dei lustrini, diciamo, che vi hanno, che avete sentito nei giorni scorsi, il malore, diciamo, a Capodanno, eccetera eccetera, la vera storia, cioè qual è la condizione reale di una figura importante dello spettacolo italiano, direi anche della vita di tutti noi, di chi lo ha visto in televisione per tanti anni e chi continuerà, spero, a vederlo, Claudio Lippi, tra poco. Ma che messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? La Zanzara. Sei una fava, te e tutto quello staff di merda, la radio schifosa marcia di quelle zanzare morte. Allora, ragazzi, con noi uno dei mostri sacri della televisione italiana, Claudio Lippi, dopo i guai, chiamiamoli così, che ha avuto con la mancata presentazione della serata di Capodanno, l'infarto, possiamo dire, che ha avuto. Scompenso cardiaco, per la precisione. Scompenso cardiaco, bravo. La terapia intensiva, comunque 7 giorni di ospedale. Sì. E le sue dichiarazioni su un tradimento che ha avuto, che ha provocato questo. Di che tipo di tradimento si è trattato, Claudio? La gestione che avevo affidato a persona che mi rappresentava non soltanto, sì, una grande certezza sul piano della qualità professionale, ma anche del rapporto amicale che si era creato in anni di frequentazione. Cioè, il manager ti ha fregato, questo è il punto? Sì, sostanzialmente sì, è stata una mala gestio. E questo, per carità, io capisco che è stato immediatamente recepito come una sorta di appello immotivato da parte di chi indubbiamente ha avuto una buona vita, ma ha creato un vuoto anche di considerevole misura che io non mi aspettavo, ed ha coinciso. Cioè, vuoto di che tipo? Vuoto di economico. Quanti soldi ti ha fregato questo qua? siamo intorno al mezzo milione di euro, che per quanto miseria. Riguarda erano... Porco Giuda. Ma per carità... Ma io mi sarei sparato? E io sono andato vicino senza spararmi, ma comunque... La, cioè vicino a che cosa dici? Al suicidio? Al fatto di avere... No, guarda, il suicidio spero di non avere mai la vigliaccheria... No, perché, perché mi hai detto sono andato vicino. Cioè, no, sono... Sì, no, ma è una, mi sono... voglio dire, sono andato vicino sul piano del non del gesto per il quale ci si toglie la vita, ma sono andato vicino quasi a perderla, perché comunque... Ah, ho capito. Fu scoperta nel... in concomitanza della mia uscita, di una mia scelta, di sì. una mia decisione presa di abbandonare, di non dar fondo, non dar luogo a un contratto sì. per una trasmissione domenicale che facevo e nella quale non mi ci riconoscevo e non, sì, sì, sì. non ritenevo fosse adeguata, non ho mai commentato la trasmissione, erano i contenuti per i quali non mi sentivo adeguato. Qual era la trasmissione, ricordiamolo? Era Una buona domenica, una buona domenica. Del 2006 Quel fatto, cioè prima la decisione di lasciare la trasmissione che ha creato sì. anche una sorta di boicottaggio, perché insomma una parte dell'ambiente si è spaventata all'idea che si diceva fosse la prima volta che dall'interno sì. uno protagonista rinunciasse a un contratto. Cioè, hanno pensato che fosse finito, diciamo, da un certo punto. Molti sostanzialmente sì, o comunque hanno temuto, presumibilmente, che fossi un soggetto pericoloso, non affidabile, fossi contro un sistema e quant'altro. Senti, ma tu Claudio, scusami, questi soldi sì. adesso io spero che tu li recupererai, naturalmente vediamo sì. se sarai capace attraverso i tuoi avvocati di recuperarli. Certo è una botta sì. perché mezzo milione, immagino che erano tutti i tuoi risparmi praticamente, cioè quello erano, che sicuramente sì, perché comunque io riconosco di aver condotto una vita certamente al di sopra della media. Ecco, ma perché? Che vizi hai avuto? A livello di vizio o a livello di acquisti, di cose, di viaggi, di bella vita? Che cosa? No, ma poi alla fine, per carità, come ho ribadito, non ho mai avuto né appartamenti né proprietà. E allora come l'hai spesi questi soldi? Ma li ho spesi come si spendono, vivendo, mantenendo una famiglia, anche se a un certo punto questa famiglia si è separata, divorziata, ma che comunque avevo quello un costa di morale. Costa di più. Conta l'obbligo per quanto mi riguarda morale. Sì, però siamo nel campo della normalità. Per tutti i soldi che hai guadagnato, spesi tutti come? Cioè, facendo una bella vita, come ristoranti, che ne so, droga non credo, no? No, per carità, no, ma non ne sarei proprio capace e ne ho una paura terrificante. A me lo dici, ho una paura fottuta. Ma proprio, no, io penso che mi faceva paura, adesso ho smesso anche di fumare e lo consiglio, ma tanto vabbè, certo. ognuno fa. C'è la cocaina, tanto per intenderci, la cocaina ti fa una paura fottuta. Ma neanche lo spinello, io ho un aneddoto che mi diverte raccontare, se cioè? Ne avevo il dimmi. Volete, che durante una partita di quelle agli esordi della nazionale, attori cantanti erano ancora mischiati, sì, sì. c'erano queste partite dove c'era il povero nel senso che è scomparso da poco Franco Citti, c'era un gruppo di persone e giocavamo a Firenze contro sì, sì. il circo, non mi ricordo se era un Togno, un Medrano, non lo so, e allora? E sul pullman che ci portava dall'albergo allo stadio alcuni dei componenti della squadra dicevano dai facciamo lo spinello è partita la canna che ha avuto su di me un effetto straordinario, nel senso che arrivato nello spogliatoio mi sono addormentato mentre mi mettevo gli scarpini, proprio cioè perché tu qualche tiro l'hai dato alla fine. Sì, ma perché poi sai è come quando si comincia a fumare in compagnia a 14 anni almeno ai miei tempi. Sì, hai dato, ma era la prima volta che lo facevi, no? Era la prima ed è stata anche l'ultima. Cioè, alla fine hai fumato, hai dato qualche tiro alla canna e ti sei addormentato negli spogliatoi. Mi sono addormentato negli spogliatoi. Infatti, sono entrato nel secondo tempo completamente ricoglionito. Completamente fatto, hai fatto. Completamente sì, fatto. Ma fatto al contrario. Fatto male. Senti, ma per chiudere la storia di Renzi, quella storia famosa, è stata una manomissione. Cioè, tu vuoi veramente parlare con Renzi oppure hanno manomesso, come hai detto? No, allora io. Nella tristezza di queste luci del neon della notte che ha dell'ospedale. Dell'ospedale, per carità, colto da una visione, e ho detto che mi è venuto e ho mandato un messaggio nel quale dicevo semplicemente: qualcuno è in grado di mettermi in contatto con Renzi, perché avrei il piacere di conoscerlo, anche perché Renzi in fondo in questo momento è uno degli artefici di un nuovo tipo di impostazione di una delle tre. Sì, anche aziende. Se poi abbiamo parlato di rottamazione, è invece il paladino della rottamazione. Mi sarebbe piaciuto anche farvi capire, confrontarti su questo, ma alla fine non ti ha mai risposto? Ma non mi ha mai risposto, ma purtroppo poi si è ingenerata, e questa è una lezione che purtroppo ho per fortuna appreso, di stare molto attenti ai social, a questi meccanismi. Vabbè, che ma sono quello abbastanza... che te frega, ma di sono quello. Un ingenuo. Per cui non è che qualcosa, sei tu che hai mandato quel messaggio, allora non è qualcun il altro. Primo sì, il primo ma sì. Ma poi subito dopo ho verificato che mi hanno chiamato in 2000. Vabbè, account falsi, eccetera, che hanno. Esatto, che nei quali hanno detto sono ricoverato a Matera, quindi qualcuno che lo sapeva. Sì. Ho bisogno, è questione di vita o di morte o qualcosa. Senti, Claudio, per chiudere questa bellissima conversazione con te, di cui sono contentissimo e spero che ce ne saranno in futuro. Se vuoi vengo anche a Tiki Taka, ma magari che... questo lo devi chiedere a Pardo, però non a me, cioè, no. Lo devi chiedere a Pardo, io lo dirò ma lui fa. Tu sei tifoso di che squadra, Claudio? Io del Milan, e in questo momento tu ed io siamo coinvolti in questa, che spero tra l'altro non vera notizia della situazione del fisco, insomma, di questa società, sì. In cui coinvolte combinazione anche Milan, sì, Galliani, eccetera. Galliani e Lotito. E Lotito, sì. Senti, ti devo chiedere una cosa, poi lo dico io a Pardo, ma tu in televisione cosa vuoi fare ancora? C'è una cosa che ancora vuoi fare? In televisione c'è tantissimo da fare. Ma no, una cosa che ti piacerebbe fare, una. Guarda, so che spero non vi offenda, non ti io non offendo. Però io vorrei rendere in parte televisivo, ma per carità non mi vergogno di prendere spunto da chi è intelligentemente coinvolto. Vorrei far parlare di più la gente. Voi avete avuto un grande premio. Che ritengo. Cioè, che vuoi fare? Vuoi fare un filo diretto con. Che ti vuoi inventare? Con far parlare la gente che in questo momento spesso viene coinvolta nelle piazze. Vorresti fare una specie di Funari? Diciamo sì, senza. Lui era straordinario. Però ti piacerebbe un po' una. Mi piacerebbe. Ti piacerebbe quello. Però qua il cuore bisogna stare attenti lì. Col ma cuore. Dove? A Mediaset, alla Rai? Dove? Alla Rai, guarda, dove? Io faccio il professionista della comunicazione, così come farei l'idraulico. Se si rompe un tubo, chiamano un idraulico. Se si vuole cercare di costruire, di fare dei progetti che riguardino la comunicazione... Ma con la Rai, con la Rai è rotto, no? No, io non ho... non ho rotto con nessuno. È che da 10 anni mi dicono stiamo aspettando l'occasione giusta. Che voi ne ho viste passare abbastanza. E in questo momento spero che la nuova gestione permetta a chiunque di poter proporre progetti da confrontare. C'è tanto da fare. Va bene, Claudio, a presto, stai bene, ciao. Amici, ciao, ciao. Grazie a te. Ciao, Claudio, grazie, ciao, grazie, grande, ciao, ciao, ciao. Buon ciao. Lavoro, grazie. Ciao, cuore, ciao, ciao, ciao. Allora, ragazzi, andiamo a Pasquale, Roma, vai, Pasquale. Sì, pronto? Dimmi, Pasquale, dimmi. Ah, salve, Cruciani, salve. Ho teso un pochettino, però va bene. Vai, dimmi, che abbiamo avuto Claudio Lippi, che devo sentire da un sacco di tempo, su un sacco di storie, ecco, per sì, capire sì, se sì. Stava male, non stava male. Ragazzi, alcune cose ma vanno fatte. Io sono contento che sta bene, che si è ripreso, quindi ce lo speriamo tutti quanti. Niente, io volevo parlare proprio del problema del Family Day, quindi sì. Su questa situazione qua, che sì. Io sto vedendo che in realtà poi la Chiesa sta quasi, come ho sentito pure dire, che sta quasi combattendo i gay, più che fare la pastorale per la famiglia, sta inculcando nelle famiglie cristiane, cattoliche, per fare una lotta contro questa... Non ho capito, scusami Pasquale, la Chiesa che... questo da tempo però, non è da adesso. sì, ma adesso, questi ultimi anni, proprio questo Family Day, eccetera, quindi stanno quasi... Ma tu che lavoro fai, Pasquale? Che lavoro fai? Fomentando. Io adesso faccio l'artista. L'artista. Però in realtà io sono stato un ex seminarista per tanti anni. Ex seminarista, cioè dovevi diventare prete? Diventare prete. Potevi diventare prete? Sono uscito 20 anni fa, sono uscito e ho avuto le mie esperienze all'interno della Chiesa, quindi ho fatto un cammino, un percorso, per tanti anni ho vissuto in castità e lì facevamo pastorale con le persone, con le famiglie. Vabbè, ma che cosa vuoi dire con questa telefonata, al di là di raccontare la cosa, che vuoi dire? Allora, che spesso è che la Chiesa all'interno ha molte contraddizioni, parliamo di... Vabbè, questo lo sappiamo, Pasquale, lo sappiamo, preti omosessuali e nello stesso tempo, eccetera, lo sappiamo, dai. Dici qualcosa di più, dici qualcosa di originale, amico mio, altrimenti... È originale, che all'interno della chiesa, guarda, io ti posso dire che ci siano delle contraddizioni, lo sappiamo, e non è che ce lo devi venire a raccontare tu. Dici una... ex seminarista che a un certo punto ha scoperto che non gli andava più e adesso è a favore dei rifroci, dai, benissimo. No, no, no, il problema è che io sono gay. Una cosa, allora. Io l'ho saputo da sempre, guarda, io sono nato gay, io lo so, le donne non mi sono mai piaciute, però poi ho avuto questo incontro, diciamo, mi hanno aiutato a fare questo percorso, il seminario, parrocchia, eccetera, eccetera. Però all'interno della chiesa... Non ho capito, sei omosessuale, ma la chiesa ti ha fatto cambiare idea all'epoca, cioè ti ha portato verso l'eterosessualità? Ma non si parlava di omosessualità, o perlomeno e non adesso si parlava, che, e adesso che sei? La pratica c'era. Adesso cosa sei? Adesso sono gay. Adesso sei gay, ma... Sono gay, però sono una persona molto riservata, non sono un attivista che va, diciamo, faccio la mia vita, ho avuto le mie esperienze, eccetera, eccetera. Non ho capito, nel periodo in cui eri sotto la chiesa sei stato portato ad avere esperienze eterosessuali, cioè hai provato ad avere anche esperienze etero? No, lì c'era proprio una, come si dice, una repressione, soprattutto quando ho vissuto poi a Roma, perché ho vissuto 3 anni in Spagna, sì. Diciamo lì l'ambiente era molto più aperto, molto più tollerante. Vabbè, la storia si fa lunga, riguardo. Pasquale, tu volevi parlare del lavaggio del cervello che la Chiesa fa alle famiglie, diciamo, no? Sì, in sostanza. Sì, ma lo fanno, ma certo, ma guarda... Questo voglio dire, ne siamo tutti consapevoli, devo sentire però Sara da Udine, Pasquale, però ti ricontatterò, perché sono interessato, ex seminarista, omosessuale, come viveva all'interno del seminario, non so quanti anni, per quanti anni sei stato in questo seminario. Andiamo a Udine da Sara, vai! Sara. Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Niente, io chiamo perché ho la soluzione al problema del consumo di risorse dovuto al pulirsi il culo con la carta igienica. Sì, e qual è? E la soluzione è fare meno figli. Perché sì, ma fare meno figli, amica mia, poi moriamo però. Cioè, poi... No, caro, perché cioè, saremo io per carità, sai che... 50. Sì, sì, miliardi. Però... Ma come si chiama questo genio che non ho capito? Sara da Udine dice, noi facendo meno figli consumiamo di meno, cioè deturpiamo meno il pianeta. L'idea, ma è giusto, l'idea non è... L'idea non è... 10 miliardi di no, esseri ma è umani, vero, l'idea non è assurda. L'idea non è assurda, no, però... è semplicemente una stupidaggine. Ma non no, non è una stupidaggine, però. Mi rendo conto che in Cina il controllo delle nascite ha fatto devastazioni, mi rendo conto che capisci. È un problema. Però c'è un dato che non lo dico io, lo dicono le statistiche, che... Nel 2050 la popolazione delle cosiddette società occidentali sviluppate arriverà al tetto di 1 miliardo. La popolazione delle cosiddette società in via di sviluppo aumenterà allora, fino a 9 finiamo, miliardi. Grazie Sara, finiamo con Lorenzo da Firenze, 30 secondi. Lorenzo, di latte, qual è quello di... Lorenzo 30 secondi, vai, che vuoi dire? Sì, volevo dire, come si fa a fare una doccia ogni 3 mesi a cambiare le... No, che 3 mesi? Ma chi l'ha detto ogni 3 mesi, no, amico mio? Ho detto tre giorni. Ma che puzzo, io non puzzo per niente. Ho detto 3 giorni, Lorenzo, ci sentiamo domani, ragazzi, c'è la sigla che mi rompe i coglioni sotto. Ciao, Dio ti benedica, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sia lodato Gesù Cristo, sempre. Radio 24. La passione si sente.